Intanto vorrei partire con la sentenza di Via Fuscè di ieri, che è anche il motivo per cui molti di voi sono qua. Io spero che questa sia un'opportunità affinché le istituzioni si diano anche una svegliata per trovare una soluzione. Molte famiglie che vivono in case che sono finite sotto inchieste, che pagano regolarmente il mutuo, hanno il terrore che la propria casa possa essere demolita o confiscata da un giorno all'altro. Speriamo che appunto quello che è accaduto sia una sveglia per la politica a livello locale e a livello nazionale per trovare una soluzione, perché le case che sono finite sotto inchiesta sono tante e purtroppo aumentano. L'incontro di stamattina invece è quella di Cesina? Allora, purtroppo non abbiamo delle tempistiche, sappiamo che quello che ci è stato detto è che l'ufficio dell'urbanistica ha ripreso a lavorare, ma non sappiamo quando i prossimi progetti verranno sbloccati. Abbiamo comunque ottenuto un follow up mensile, quindi un incontro mensile con la vice sindaco per capire i vari progetti che potranno essere sbloccati. Ma soluzioni prospettate dal comune? Sono le stesse, quindi quelle delle ultime delibere. Ci aspettavamo anche noi, soprattutto dopo le dichiarazioni dell'epifania del sindaco Sala, che ci fosse qualche novità particolare, più forte, però la situazione più o meno è stata quella già detta, già ripetuta appunto nel mese di dicembre e novembre. Ma come mai è durato tanto l'incontro? Beh, tanto perché comunque noi rappresentiamo davvero tante categorie, poi magari sui giornali sui media vengono riportati casi più eclatanti, però è giusto ricordare che è una crisi che colpisce tutto il ceto medio. Con noi oggi c'era anche una rappresentante dell'edilizia convenzionata, delle cooperative. I casi sono tanti, sono disparati, c'è chi vive in una casa sotto inchiesta, chi ha il cantiere sotto sequestro, chi ha il progetto che deve partire, e quindi quando le situazioni sono così tante, anche le domande, le preoccupazioni nostre di cui facciamo carico sono tante e giustamente ne chiediamo conto. Ma su Via Fosce la vice sindaco cosa ha detto? Che per quanto riguarda è una sentenza del Consiglio di Stato, e detto questo, quello che a noi fa, diciamo, in qualche modo strano, quantomeno non capiamo, è come il Consiglio di Stato abbia avuto una decisione diversa per quanto riguarda Via Anfiteatro, che invece è stato comunque messo sotto sequestro. Però questo apre la pista a tutta un'altra serie di casi. Esattamente, per questo torno a ripetere, nella serata di ieri, quando è iniziato a circolare la notizia, nella mattinata di oggi, ho ricevuto davvero tanti messaggi di famiglie che abitano case sotto inchiesta, che adesso, ripeto, vivono nel terrore che la loro casa possa essere demolita. E ripeto, sono famiglie che puntualmente pagano il mutuo. E noi abbiamo fatto una richiesta per quanto riguarda le soluzioni, che sono interventi amministrativi e interventi nazionali, ma non perché ce lo siamo sognati di notte. Queste richieste partono da un incontro fondamentale, ovvero quello di aprile 2025, a seguito dall'incontro con i PM, con il pool. Ci è stato poi confermato dai vari politici, sia a livello locale che a livello nazionale, che queste sono le uniche due soluzioni. Si può e si deve lavorare sia a livello locale che a livello nazionale. E io torno a ripetere, nonostante non sembra essere scontato, questa causa dovrebbe unire la politica e non dividerla, perché le famiglie appartengono sia alla destra che alla sinistra. Vi posso assicurare che dentro al comitato ci sono le famiglie cosiddette arcobaleno, ci sono le famiglie tradizionali, ci sono i giovani, ci sono i pensionati. Quindi quelle categorie di persone che sono sempre citate nelle varie campagne elettorali, ma quando poi hanno bisogno di un intervento urgente della politica, ecco che non ricevono una risposta. Oggi non so quanti giorni di attesa sono, ci stiamo andando verso 2 anni tra poco, quindi l'attesa è davvero tanta. Sappiamo che ci sono delle elezioni importanti nel 2027, sia a livello locale che a livello nazionale, speriamo di non diventare un protesto di campagna elettorale.